Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Tanti argomenti diversi, ma quasi tutti genovesi, perché a Genova c'è il Festival della Scienza. È in corso, sta per finire, quindi affrettatevi. Quest'anno non siamo potuti andare lì fisicamente, però in qualche modo li portiamo qua. Adesso i titoli e poi incominciamo. Dal movimento della coda, i cani capiscono le buone o cattive intenzioni dei propri conspecifici. Negli scorsi giorni si è parlato di riscrittura dell'evoluzione umana. Alcuni crani scoperti in Georgia fanno discutere la comunità scientifica. Cerchiamo di capire l'importanza di questo ritrovamento. Il bagnino e i samurai. Titolo strano di un saggio che racconta una grande occasione mancata italiana. Il Muse va in Africa. Il Museo Trentino fa ricerca e propone viaggi in zone inesplorate. Allora, il primo che ci arriva da Genova è Giorgio Vallortigara, che è qui con noi. Buonasera Vallortigara. Buonasera a lei e agli ascoltatori. E bentornato, neuroscienziato del CIMEC di Trento, è spesso nostro ospite, e a Genova ha tenuto una conferenza, una Lectio Magistralis. Quest'anno il tema del festival era la bellezza. La bellezza, sì. E lei ha parlato della percezione della bellezza nel regno animale. Sì, esattamente. Da parte degli animali. Se esista un qualche tipo di sensibilità estetica o di gusto per il bello tra gli animali. Ed esiste? Beh, è difficile dare una risposta certa, sicura, perché non abbiamo modo di penetrare l'esperienza soggettiva degli animali. Per la verità non possiamo penetrare neppure l'esperienza dei nostri simili. Semplicemente accade che dei nostri simili ci fidiamo di quello che ci dicono, il linguaggio. È difficile definire la bellezza, non ce l'abbiamo, è molto con gli animali, però ci sono indicazioni indirette e alcune anche abbastanza dirette del fatto che probabilmente c'è tra gli altri animali qualcosa di simile ad un apprezzamento estetico. Per esempio una cosa che è stata abbastanza studiata e che è sorprendente per certi aspetti riguarda la capacità degli animali di riconoscere gli stili pittorici. È un lavoro molto famoso che è stato condotto con i piccioni, in cui gli animali venivano dapprima addestrati a crinare, a riconoscere dei quadri, poniamo, di Monet e di Picasso. E i piccioni imparavano, e questo non è sorprendente perché alla fin fine un quadro è uno stimolo visivo come un altro. La cosa diventava interessante quando, dopo questo addestramento, i piccioni venivano presentati nuovi esemplari degli stessi autori, quindi quadri che non avevano mai visto, ma con lo stesso autore. E poi addirittura di autori diversi dello stesso stile, quindi per intenderci, che so, Renoir da una parte e Braque dall'altra. Cioè riconoscevano gli impressionisti, riconoscevano gli impressionisti e i cubisti. E recentemente questo stesso risultato, questi stessi esperimenti, sono stati riprodotti con le api, che hanno 960.000 neuroni esattamente nel cervello. E ciascuno può ricavare quel che vuole da questo, nel senso che non serve molto il cervello per fare il critico d'arte, no? I piccioni o le api non sanno nulla dello stile pittorico per quello che riguarda il suo contenuto storico, sociale, culturale. Però è notevole che riescano a riconoscerlo su base squisitamente percettiva, perché quali siano gli indizi sottili, fini, che vengono utilizzati per effettuare una discriminazione di questo tipo, non è facile da dire, e non è neppure facile al momento costruire macchine, per esempio riconoscitori automatici, che sappiano con buona affidabilità dare prestazioni simili. Quindi lei dice un ingrediente fondamentale per giudicare se una cosa è bella o brutta a partire da una posizione personale è discriminare tra una percezione e l'altra, appunto, no? Questo noi lo vediamo forse probabilmente in alcuni animali. Sì, altre indicazioni le abbiamo da tutti tutti quei dati che suggeriscono l'esistenza di meccanismi percettivi che producono anche fenomeni illusori che vengono utilizzati e sono stati largamente utilizzati nella storia delle arti figurative negli animali. Il caso forse più sconcertante, che è stato documentato recentemente, riguarda la capacità dei cosiddetti giardinieri di fare un uso preciso e, come dire, intenzionale di quella che viene chiamata falsa prospettiva. La falsa prospettiva è presente in molti edifici classici, sì, e a Roma ne è un esempio famoso, palazzi in cui si vede un androne che sembra estendersi per 30-40 metri, quando in realtà si estende per 5-6 metri scarsi, e questo viene ottenuto con un trucco che gli uccelli giardinieri pure riproducono. Il maschio fa una specie di stradina, di teatrino per la femmina si pone in una specie di arco e guarda, e il maschio fa per esempio davanti a lei una specie di stradina, per esempio di sassolini o di altro materiale che abbia a disposizione. Quello che si è visto recentemente è che questi sassolini non sono messi a caso, ma sono messi secondo un gradiente, cioè quelli più piccoli sono più vicini alla femmina e poi via via a crescere, via via sempre più grandi. Per produrre l'effetto ottico. È un effetto fantastico, per cui il maschio, come risultato di questa falsa prospettiva, pare essere più grande. È sorprendente. È un tipo di illusione veramente... che si verifica, sì. In certe strombature, no, del Bramante, per esempio, ci sono. Certo, oppure in certe illusioni ottico-classiche, ottico-geometriche classiche, come per esempio l'illusione di Ponzo. Se qualcuno va lì, come è stato fatto, a rovinare la creazione dell'uccello e a sparpagliare i sassolini, lui li rimette a posto. Ah, quindi è anche abbastanza un architetto rigoroso, insomma. Assolutamente. Vabbè, noi però, Chiara, non possiamo parlare di approfittare, con l'ortigare, no, infatti, senza avere scodinzolamenti. No, questo perché appunto approfittiamo del fatto che il professore sia qui ai nostri microfoni, perché è appena uscita una sua ricerca sullo scodinzolamento del cane, che a seconda che lo faccia a destra o a sinistra vuol dire che dà un messaggio diverso al collega, suo conspecifico, al suo simile, e quindi insomma, professore, le offriamo il microfono anche per raccontarci questo. Sì, dunque fatemi dire prima di tutto, perché è importante, questo è un lavoro in collaborazione con i colleghi della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari, Marcello Siniscalchi, Angelo Quaranti in particolare, questo giusto per dire, una collaborazione tra un'università dell'estremo nord e uno dell'estremo sud, a dimostrazione che quando si hanno date le risorse adeguate tutte le università italiane fanno un buon lavoro, di lavorare bene. E è il seguito di una cosa che avevamo fatto qualche anno fa. Abbiamo provato a mostrare dei cani stimoli che producono emozioni diverse, guardare il proprietario, guardare un gatto oppure guardare un cane in atteggiamento aggressivo, e avevamo trovato che come risultato della diversa attivazione della parte destra o sinistra del cervello, che controlla i movimenti nel senso opposto o verso sinistra o verso destra della coda, c'era uno scodinzoli asimmetrico. E questa ricerca lasciava però aperta una questione, cioè questo qua è semplicemente, come dire, il risultato meccanico della stimolazione asimmetrica degli emisferi, e quindi la storia finisce lì, oppure convoglia un qualche tipo di significato, di messaggio a chi guarda lo scodinzolio. Ecco. E allora questa volta abbiamo provato a fare un po' il contrario, abbiamo preparato dei filmati in cui ci sono dei cani che scodinzolano sistematicamente o sulla destra o sulla sinistra, quindi le immagini sono assolutamente identiche, l'unica cosa che cambia riguarda il posizionamento dello scodinzolio. Così, per loro natura. Per loro natura. E li avete mostrati? Li abbiamo mostrati a dei cani, a un gruppo di 43 cani, e abbiamo misurato questa volta, oltre il comportamento, anche un aspetto fisiologico, cioè abbiamo misurato la frequenza cardiaca. Loro indossavano delle specie di vestitini che vengono usati dai veterinari in queste circostanze, a cui gli animali si abituano facilmente, per misurare la frequenza cardiaca. E cosa si è quello visto? Che abbiamo trovato è che effettivamente fa differenza per i cani e nella direzione in cui ci aspettavamo. In buona sostanza, quando vedono un cane che scodinzola sulla destra e che quindi manifesta un'attivazione dell'emisfero sinistro, quindi un'emozione positiva, quindi il cane che osserva vede la coda sulla sua sinistra, la reazione è rilassata, diciamo così. Mentre invece quando succede il contrario e vedono la coda sulla loro destra, cioè il cane osservatore, c'è un incremento notevole della frequenza cardiaca e tutta una serie di comportamenti che suggeriscono stress, che è in tensione, disagio, ansia. Sì, questo lo si vede anche nel filmato che è a disposizione assieme al paper, assieme all'articolo. Questa è un'osservazione che possono fare anche i nostri ascoltatori con i propri cani? Nei giardinetti? Sì, direi di sì. La velocità dello scodinzolio è variabile da razza a razza. Alcuni sono più lenti, alcuni sono più veloci. È un po' un problema per noi, non per i cani, perché i cani hanno una frequenza di risoluzione temporale migliore della nostra. Un trucco può essere quello, anche con un telefonino, di fare un piccolo filmato dello scodinzolio e guardarlo a rallenti e guardarlo rallentato, allora si riesce a vederlo molto bene. Ok, abbiamo aperto una strada di ricerca e poi fateci sapere. Intanto grazie professore, siamo sicuri che la ospiteremo presto. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il tema del Festival della Scienza di quest'anno, ve l'abbiamo già detto, era la bellezza. Ora, era bello anche l'uomo di Neanderthal? Di questo ha parlato Giorgio Manzi, primatologo, in una conferenza nella quale però si è anche discusso, e perché questo è un tema di grande attualità, dell'uomo di Dmanisi, che sì, non è un paesino ligure. No, non è un paesino della provincia di Genova, no, ma è una località della Georgia dove c'è un grosso giacimento e dove recentemente, negli ultimi anni, diciamo, sono stati ritrovati 5 crani piuttosto importanti. Ora, nelle scorse settimane si è molto parlato in particolare della descrizione di un quinto cranio molto particolare, di cui adesso entreremo nel dettaglio, e che ha fatto un po' discutere la comunità, diciamo, scientifica mondiale, proprio perché sembrerebbe un po' riscrivere l'evoluzione umana. Però ecco, qui sicuramente abbiamo bisogno di maggiori informazioni, di maggiori dettagli, e andiamo proprio da lui, da Giorgio Manzi. Intanto buonasera e benvenuto. Salve, buonasera. Buonasera Manzi. Lei è docente di storia naturale dei primati alla Sapienza di Roma e l'abbiamo chiamata un po' perché adesso vorremmo chiederle di descriverci, insomma, questi crani il cui ritrovamento avvenuto qualche anno fa e adesso descritti su Science hanno gettato un po' di confusione sia sul livello della famosa riscrittura dell'evoluzione umana, per cui l'albero genealogico comincia un po' a delinearsi forse in maniera più definitiva, ma soprattutto sui titoli di giornali. Io qua ne ho qualcuno. In Italia si è sottolineato il fatto che avessimo, come dire, finalmente trovato il progenitore comune, e qui forse qualcosa dobbiamo dire. Sì. No, c'è molto da dire effettivamente. Forse innanzitutto possiamo inquadrare il sito e l'epoca nella quale ci troviamo. Allora, il sito si trova in Georgia, intendendo per Georgia quel paese caucasico tra il Mar Nero e il Mar Caspio. Quindi siamo nel piccolo Caucaso in realtà. Se uno va nella capitale di quello stato, Tbilisi, prende una macchina, in un'oretta, salendo sulle montagne del piccolo Caucaso, si trova a Dmanisi, dove c'è un villaggio medievale con tanto di chiesetta, castello diroccato, e dove gli archeologi medievisti, verso la fine degli anni 90, quindi più di 20 anni fa, trovarono una prima evidenza del fatto che sotto il villaggio medievale c'erano dei depositi molto più antichi di così, tant'è che intervennero i paleontologi rendendosi conto che si trattava dei resti di una presenza umana che risale a una fase molto antica del Pleistocene. Poi arrivarono le date e si incominciò a parlare di 1.700.000, 1.800.000 anni, quindi epoche veramente molto antiche, 2 milioni di anni, quando si pensava che i nostri antenati fossero ancora solo e soltanto in Africa. Qui è qui è proprio il punto centrale, sembrerebbero i primi fuori dall'Africa, fuori dalla culla, diciamo. Esatto, e si incominciò ad affermare l'idea che a Dmanisi, in Georgia, ci fossero le prime evidenze di una presenza umana, ancorché primordiale, siamo ben lontani dal parlare di Homo sapiens, fuori dall'Africa, dopo l'epoca lunga di milioni di anni di nostri antenati bipedi che chiamiamo fondamentalmente australopiteco. Poi cominciarono ad arrivare i fossili umani, prima timidamente per così dire, una mandibola, e poi verso lo scoccare del millennio, insomma intorno al 2000, i primi crani. E per noi i crani, come si sa, insomma, sono un oggetto di particolare interesse perché ci svelano parecchie cose riguardo al nostro passato e ai percorsi dell'evoluzione. All'evoluzione del cervello, certo. Cervello, ma anche... La mandibola per come mangiavano, l'alimentazione. No? L'alimentazione. Effettivamente nel cranio c'è una quantità di informazioni straordinarie. Ma non ci furono solo crani, anche resti di quello che noi chiamiamo post-cranio, cioè le ossa praticamente al di sotto del cranio, no? Omeri, femori. Costole e quant'altro. E così si è andato componendo un puzzle che ha avuto poi un esito ultimo in questo quinto cranio, che ho 5 crani, tutti in buono stato di conservazione per un'epoca così antica. Questa è una cosa piuttosto straordinaria, cioè trovarli coetanei nello stesso strato geologico e 5 così ben conservati vi dà un sacco di informazioni ed è questo un po' il punto che ha fatto discutere. Sì, esatto, perché sia l'idea rara in paleoantropologia della variabilità all'interno di un gruppo, maschi, femmine, giovani, adulti, individui in età più avanzata, addirittura ce n'è uno, il cranio numero 4 nell'ordine delle scoperte, che è addirittura edentulo, cioè ha perso in vita i denti e quindi per sopravvivere ha bisogno dell'assistenza di altri individui, insomma, che lo aiutassero a nutrirsi di cibi, certo non cucinati. Perché allora la zuppetta e il brodino non era facile, insomma, non c'era nemmeno l'idea proprio. Esattamente. Quindi ci sono tante informazioni che vengono fuori da questo sito. L'informazione più straordinaria è proprio questa dell'antichità, 2 milioni di anni quasi, quando i primi esseri che possiamo chiamare, anche se con qualche incertezza, umani, cioè appartenenti al genere Homo, certo non alla specie Homo sapiens, comparivano in Africa. Quindi è come se la comparsa stessa del genere Homo in Africa abbia significato uscire dall'Africa stessa, cioè compare il genere Homo e subito si diffonde. E questa è la prima notizia. La seconda notizia è che a diffondersi sono delle forme come quelle di Dmanisi che hanno un cranio con dentro un cervello ancora piccolo. Cioè un cervello piccolo, però dei denti grandi, un viso piuttosto allungato. Assomigliavano un po' ai Neanderthal. Forse ricordano di più addirittura l'australopiteco da cui provengono, derivano. Ricordano delle forme di Homo molto iniziali, come quelle che noi chiamiamo Homo habilis, primi produttori di manufatti del paleolitico, e questa è l'altra notizia. Sì. Questi uomini dal cervello piccolo, dalle caratteristiche ancora quasi, passatemi l'espressione, scimmiesche, hanno in mano dei manufatti del paleolitico, ma molto arcaici. In altre parole, insomma, a diffondersi non sono state delle forme umane particolarmente progredite, ma sono state delle forme assolutamente primordiali, quindi la loro diffusione non è mediata dalla cultura o da capacità tecnologiche o adattative particolari, ma piuttosto è dettata dall'ecologia, cioè devono essere state delle forme che hanno avuto un grande successo adattativo. Il bipedismo era stato acquisito da tempo e a questo punto fanno la differenza i primi manufatti del paleolitico, una nuova strategia anche di approvvigionamento del cibo, fanno sì che questi nostri antenati diventano un po' troppi per il territorio africano dal quale si origina e quindi cominciano a diffondersi. A spostarsi. Questa diffusione li sparpaglia, per così dire, sul territorio in maniera tale da occupare altre parti dell'Africa e occupare anche buona parte dell'Eurasia nel tempo, naturalmente. Dmanisi è il primo posto dove arrivano degli avamposti di questi uomini primordiali in diffusione. Ultima notizia è quella del quinto cranio. Ecco, che è quello che ha fatto notizia negli ultimi giorni. Esattamente, che è un po' una ciliegina sulla torta della variabilità. Cioè questo gruppo di nostri antenati così primordiali e tutte le altre cose che abbiamo appena detto sono anche molto variabili al loro interno. Sono diversi uno dall'altro. Cioè questi 5 crani sono diversi uno dall'altro e questo è una cosa che appunto getta un po' di confusione perché potrebbero anche appartenere a specie diverse? Beh, questa è un'ipotesi estrema che io personalmente tenderei a scartare. Escludere. Insomma, sembrerebbe più gli elementi, cioè gli individui di uno stesso gruppo e quindi appartenenti alla stessa specie. Piuttosto ci spingono un po' a riconsiderare le troppe forse specie che fino ad oggi abbiamo pensato di conoscere nella documentazione fossile. Però ci possono essere anche altre chiavi di lettura. A me, per esempio, questa grande variabilità fa pensare che siamo in una fase di instabilità morfologica. Che cosa voglio dire? Voglio dire che effettivamente qua siamo in una fase a cavallo tra il mondo biologico, ecologico, morfologico delle australopitecine, Australopithecus, Paranthropus e altre forme, e che è il vecchio nostro, no? Mondo dei primi, la radice. È la radice, e il mondo invece del genere Homo, che proprio da Dmanisi in poi comincerà a svilupparsi in Africa e in Eurasia, con dei poli di variabilità in Estremo Oriente, in Europa, in Africa, no? Incominceranno a manifestarsi delle grandi diversità, pur in un contesto di analogie, di morfologie tra loro in qualche modo simili. Ora, Dmanisi, all'inizio di tutta questa storia di diversità e al passaggio cruciale tra Australopiteco e Homo, è ragionevole che ci sia una grande variabilità interna al gruppo. Quindi lei la spiega così? Sì, sì, io trovo che lì in embrione ci sia un po' tutta la variabilità che poi in seguito vedremo svilupparsi appieno a Giava, in Cina, in Spagna, piuttosto che in Sudafrica. Ma quindi è sbagliato o è corretto pensare che questi siano davvero i nostri progenitori, che da lì si siano originati i rami, come dire, successivi, oppure comunque dobbiamo considerarlo un albero con tanti rami, tante fronde? Io penso che soprattutto dopo ci saranno diverse fronde. Lì è come se si concentrasse un po' lì, a Dmanisi, a 1.800.000 anni, appena fuori dall'Africa e prima della grande diffusione in Eurasia, è come se si concentrassero un po' il passato, Australopithecus, e il futuro, Homo, e raccolti, o per meglio dire, descritti dai vari individui di una stessa popolazione. Effettivamente sì, Dmanisi è come se fosse un fascio di luce che noi abbiamo, come quei riflettori che si usano in teatro sul protagonista, che illuminano un caso particolare che però è illustrativo di tutto ciò che sta succedendo all'intorno. Ecco, ma senta Manzi, come la zona dell'Olduvai in Africa poi dopo è stata perlustrata, adesso lì intorno bisogna scavare. I georgiani lo fanno già da parecchio tempo, devo dire, i nostri colleghi si sono molto emancipati grazie proprio a questa scoperta che, come dico, li sta facendo lavorare da più di 20 anni. E pian piano hanno acquisito autonomia, trattano da pari a pari con la comunità scientifica internazionale. Ci aspettiamo che ci possano essere nuove scoperte, appunto, che ci diano conferma o meno di quello che abbiamo fatto finora. Assolutamente, assolutamente sì, questo è un po' il bello della paleoantropologia, no? La scienza delle nostre origini. E ha fatto passi da gigante nel corso degli ultimi decenni, dell'ultimo secolo e mezzo, perché in fondo nasce un secolo e mezzo fa come scienza, ed è quindi una scienza ancora giovane. Ne sappiamo molto, molto, molto di più di quanto ne sapevamo anche fino a pochi decenni fa, ma molto ancora è quello che ci aspettiamo di conoscere in futuro. Per uno come me, che gli è capitato di scrivere dei libri sull'evoluzione umana, ci si accorge facilmente quanto invecchino presto. Infatti stavo proprio per ricordare che chi volesse saperne di più, sta uscendo il suo libro Il grande racconto dell'evoluzione umana, edizione Il Mulino, e insomma deve già aggiornarlo, non è ancora uscito, ma fortunatamente è vero questo, ma solo in parte, fortunatamente, in quanto le scoperte precedenti a uno specialista già annunciavano le novità che poi diventano più popolari, più, no, diffuse attraverso la stampa. Per cui nel libro già si parla di Dmanisi abbondantemente e dei tesori, diciamo così, che questo sito ci sta svelando. Effettivamente il nostro lavoro procede per ipotesi, no? Ipotesi di lavoro, se ne fanno tante. Poi i dati vengono a confermare o a smentire quella o quell'altra ipotesi. Fortunatamente l'ipotesi che facevo io sulla base di ciò che sapevamo a proposito di Dmanisi fino a ieri corrispondono con quello che emerge da questo nuovi reperti. Va bene, buon lavoro professore, grazie. Grazie a voi. Grazie, buona ricerca. Buona serata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Restiamo al Festival di Genova per parlare di un libro che al Festival è stato presentato. Il libro ha un titolo veramente curioso, strano, suggestivo, Il bagnino e i samurai. Certamente, ascoltando questo titolo, e io vi dico che è un saggio, vi verrà molto difficile pensare che possa essere un libro che parla di una grande opportunità italiana persa nel campo delle aziende farmaceutiche, ma invece è assolutamente così, e il titolo è quanto mai azzeccato. Per parlare di questa avventura, di questo evento assolutamente negativo accaduto un certo numero di anni fa, anzi vi do già una data, il 22 marzo 1993, e questa è la data fatidica di cui dovremo parlare, ho qui due samurai. Allora, Mario D'Elena, buonasera D'Elena. Buonasera. Lei, ok, adesso spieghiamo perché era un samurai, ma cosa fa adesso? Al momento attuale naturalmente sono un pensionato, però tuttavia continuo ad interessarmi di oncologia, nel senso che non solo organizzo meeting perché ci tengo che la cultura oncologica venga diffusa, ma anche collaboro con un'azienda elettromeccanica per la messa a punto di apparecchiature nuove da usare nel campo biomedico. Naturalmente. Ok, benissimo. E qui con noi anche Silvio Monfardini. Buonasera Monfardini. Buonasera. Lei attualmente? Sì, io sono direttore del progetto di oncologia geriatrica dell'Istituto Palazzolo, Fondazione Dognocchi di Milano. Silvio Monfardini è, insieme a Daniela Minerva, una collega giornalista che si occupa da tanto tempo in modo molto approfondito di questioni biomediche, l'autore del libro Il bagnino e il samurai, edito da Edizioni Codici. Allora, Il bagnino è un personaggio che probabilmente molti di voi in ascolto conoscete, ma per ben altre vicende. Si chiama Carlo Sama, e in quella data, il 22 marzo 1993, erano quegli anni delle tangentopoli, erano quegli anni in cui esplodeva questo, come dire, questo focus sulla corruzione, le mazzette, insomma tutte queste cose brutte che abbondantemente attraversavano e attraversano il nostro paese. In quella data il signor Sama in Svezia vendette Farmitalia. Cosa possiamo dire brevemente, Monfardini, per sottolineare quanto sciagurata fu quell'iniziativa? Farmitalia era un grande patrimonio italiano che è andato via così, d'un botto. In effetti un gioiello, in Farmitalia era stata scoperta da Arcamone l'adriamicina, studiata poi con De Marco all'Istituto dei Tumori, e Bonadonna, che era un ricercatore che veniva dagli Stati Uniti, era stato al Memorial, e che ha radunato intorno a sé coloro che hanno poi insieme a lui sperimentato l'adriamicina, quindi D'Elena, Baietta, Fossati, Tancini, un piccolo gruppo che Bonadonna appunto ha definito i samurai. Lei ne faceva parte, e anche D'Elena, no? Voi siete due di quei sette. E noi siamo i due primi. I due samurai, primi samurai, sì. Che hanno, si sono appunto aggiunti a Bonadonna, e poi la dramicina è stata noi sperimentata in un ampio spettro di tumori, e ha dimostrato di essere in grado di indurre risposte, è stato un farmaco poi che è stato venduto in tutto il mondo, è stato prodotto interamente italiano, ecco, e Farmitalia deteneva il brevetto, quindi al di là della grande efficacia sul piano terapeutico era anche una, insomma, veramente una miniera d'oro, insomma. Allora, il signor Carlo Sama era un alto dirigente di Montedison. E perché è lui il bagnino, attenzione, è lui il bagnino, perché in fondo pochi anni prima lui inizia la sua carriera incontrando una donna che poi diventò sua moglie, che era della famiglia Ferruzzi. Lui faceva il bagnino sull'Adriatico, insomma improvvisamente in quell'Italia molto provinciale, molto arruffata, diventò un alto dirigente di questa azienda Montedison, gestita malissimo, e tra le tante cose che Montedison fece, appunto, affidò a Carlo Sama la vendita di Farmitalia. Ecco, fra l'altro, per precisione, D'Elena, non eravate tutti maschi, i samurai avevano anche due samurai, esatto, donne, due ricercatrici. C'erano due donne, effettivamente, ed era una era la pediatra, la Franca Fossati Bellani, che è stata una delle prime pediatre oncologhe d'Italia, insomma. Uh-huh. E l'altra era la Pinuccia Valagussa, che era una biostatistica molto brava, uh-huh, e anche loro sicuramente facevano parte del gruppo. Insomma. Del gruppo. Questo gruppo qui, lo dico io perché i dati sono questi, magari non sarebbe bello se lo diceste voi, però era un gruppo di livello assolutamente mondiale, era un team di ricercatori top. E a questo gruppo di ricercatori arrivò come mission, come obiettivo, quello di provare a verificare sul campo l'applicazione, appunto, gli effetti di questo principio attivo. D'Elena, ci siamo sentiti prima di questa intervista. Sì. Lei mi ha giustamente sottolineato un fatto che probabilmente è ben poco noto, e cioè quando voi iniziate ad operare con grande successo, nella terapia del cancro non c'è la chemioterapia. Sì, perlomeno è molto, pochissimo. Molto marginalmente, insomma. Mm. Nel senso che in Italia, per esempio, non c'era un volume dedicato alla chemioterapia del cancro. Tanto per dire. All'università non se ne parlava praticamente. Tutti noi ci siamo laureati e non sapevamo nulla di questa cosa qua. E quindi effettivamente non c'era. Se ne cominciava a parlare in America, anche se gli studi, i primissimi studi risalgono ad anni addietro, ma erano tenuti quasi nascosti perché tutto era successo incidentalmente con un bombardamento che era stato fatto a Bari proprio. Sì. Era stata centrata una nave che trasportava dell'iprite. Durante la Seconda Guerra Mondiale. Esatto, durante la Seconda Guerra Mondiale, il 44, il 2 dicembre per l'esattezza. Ma non si poteva dire questo perché naturalmente c'era il segreto bellico. Certo. Però proprio negli Stati Uniti al Memorial cominciarono a studiare questo fatto perché si erano accorti che questo gas tossico che si era sprigionato da questa nave, la John Harvey, centrata, praticamente induceva un abbassamento dei globuli bianchi, oltre a far cadere i capelli naturalmente e dare del vomito notevole. E naturalmente i globuli bianchi che si abbassano, immediatamente i ricercatori andarono a pensare, nelle leucemie i globuli bianchi salgono. Ecco, allora dopo però questo episodio, questa traccia di ricerca connessa appunto addirittura a un bombardamento di una nave nella Seconda Guerra Mondiale, agli effetti sulla gente che c'era lì vicino, dopo questo fatto resta abbastanza così, insomma, non utilizzata, non c'è uno sviluppo. Poi si arriva verso gli anni 60 e allora lì si incomincia un po' a parlare di chemioterapia. Si comincia a parlare negli anni 60, nel 70 c'è il boom, letteralmente, insomma, ecco. Oh, di questo boom voi siete quanto mai interpreti. Sicuramente noi siamo responsabili, diciamo così, se vogliamo, insomma. Perché questo, ci ricordi il nome di questo principio attivo? L'adriamicina. Ecco, è questa proprio che fa decollare, sì, definitivamente questa strada. Definitivamente questa, sicuramente, perché era un farmaco eccezionale, guardi, nel senso che non solo aveva uno spettro d'azione, ed ha tuttora, perché viene tuttora usato, uno spettro d'azione estremamente vasto, ma noi ne mettiamo a punto veramente molto bene una tossicità, perché bisogna tenere presente che tutti i farmaci chemioterapici hanno una loro tossicità, potremmo dire tutti i farmaci, ma i chemioterapici in particolare, ne mettiamo a punto appunto veramente bene la tossicità, e tutt'oggi dobbiamo dire, lo diciamo anche, mi consenta, con un certo orgoglio, che nessuno ha aggiunto una virgola a quello che noi avevamo detto negli anni 70. Monfardini, nel libro voi mettete anche cifre, insomma, tutta la parte che riguarda la salute e l'importanza di questa ricerca, insomma, l'abbiamo descritta bene, questo è un fatto di grande importanza. Però, insomma, con questo disastro industriale del vendere Farmitalia, noi abbiamo perso un know-how industriale che, se fosse rimasto oggi, a parte il fatto che le cifre di guadagni sono veramente impressionanti in questo settore, ma probabilmente avremmo altre aziende, si sarebbe mantenuta, diciamo, quella cultura industriale che invece è andata completamente persa. Certo, se lei fa una lista, diciamo, delle prime aziende farmaceutiche attive a livello mondiale, multinazionali del farmaco, le cosiddette Big Pharma, noi non ci siamo nelle prime 10, ma non ci siamo neanche dall'11° al 20° posto, quindi non abbiamo un volume di produzione che ci permetta di affacciarci nuovamente sullo scenario mondiale. Nel nostro paese non si è compreso che la ricerca sui nuovi farmaci è un fattore di sviluppo non solamente tecnologico ma anche economico. E quindi noi oncologi medici italiani ci siamo sempre trovati ad impiegare nuovi farmaci solamente in seconda battuta. Farmaci che arrivavano dall'estero, venivano sperimentati in Francia e soprattutto negli Stati Uniti, in Inghilterra, e poi arrivavano da noi. Le chiedo, Monfardini, c'è la possibilità di riprendere in qualche modo questo percorso, ricerca che poi diventa industria, che diventa applicazione, diventa industria, insomma, oppure storia chiusa per il nostro paese? Mi bisognerebbe innanzitutto considerare la ricerca che viene attualmente, cioè ciò che è rimasto, diciamo, in Italia, e poi anche il ruolo degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico oncologici. Ecco, per quanto riguarda la farmaceutica, noi abbiamo rivolto un po' la nostra attenzione a Nerviano. Nerviano è una holding che ha tutte le facilities attualmente per fare ricerca in campo farmacologico. Nerviano è qua vicino a Milano. Nerviano è qui in provincia di Milano. Fra parentesi, quando viene inaugurato il laboratorio farmacia di Nerviano, viene invitato il ministro d'allora, che era l'onorevole Rosi Bindi, la quale dice che lei, che il ministro, non va nei luoghi dove si fa ricerca sulla pelle della gente. Ecco, qui Monfardini, esatto, nel vostro libro lo sottolineate, c'è in Italia, anche questa è una cosa un po' provinciale, l'idea che le case farmaceutiche siano dei luoghi demoniaci, no? E voi dite non siamo assolutamente d'accordo. Noi non siamo d'accordo, è il compito dell'industria farmaceutica quello di fare profitti seguendo le regole e impedendosi da parte, diciamo, del governo che ci siano episodi di corruttela come si sono verificati in passato. Mario De Lena e Silvio Monfardini, i due samurai, grazie per il vostro contributo. E io ricordo il titolo del libro, Il Bagnino e il Samurai, edito dalle edizioni Codice, e scritto, gli autori sono Daniela Minerva e Silvio Monfardini. Grazie, arrivederci. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Mozambico, Tanzania, andiamo lontani. Sì, purtroppo solo con la mente. Esatto. No, questi che poi sentiamo invece certo, ci vanno anche coi piedi. E sono quelli del MUSE, il Museo delle Scienze di Trento, che ha appena aperto una bellissima sede nuova, però questa attività di ricerca, e poi vedremo, ma a questa attività di ricerca si aggiunge anche un'attività di viaggi di cui parliamo dopo e che potrebbero anche interessare quelli che ci ascoltano. Allora, si muovono su tanti fronti. Via. Tanti fronti, questi del MUSE. I nostri ospiti questa sera sono Francesco Rovero. Buonasera, Rovero. Buonasera a voi. Lei al MUSE cosa fa? Sono il responsabile della sezione di biodiversità tropicale, che è appunto l'ambito che lavora in Africa orientale. Esatto. Adesso ci farà capire perché il Mozambico è la culla, come dire, della biodiversità. Ma sul Mozambico lavora Michele Menegon. Buonasera, Menegon. Buonasera a tutti. E lei, lì al MUSE? Mi occupo con Francesco di biodiversità tropicale e appunto di ricerca soprattutto sulle montagne dell'Africa orientale. Siete in partenza? Michele Menegon, direi di sì. Quando partite voi per il Mozambico? Per la Tanzania martedì prossimo e dalla Tanzania via terra attorno al 18 per il Mozambico. Per il Mozambico. Però noi incominciamo dalla Tanzania. Queste ricerche che fa il museo sulla biodiversità sono ricerche, insomma, in campo da tempo. Andate in luoghi, soprattutto adesso quando parleremo del Mozambico, ben poco noti. Inesplorati forse. In Mozambico praticamente inesplorati. E che cosa fate? Ci dica lei, Rovero, che cosa fate in Tanzania? Allora, in Tanzania noi siamo presenti dalla fine degli anni 90, primi anni del 2000, sia io che Michele, in quanto zoologi, per ricerche sulle foreste inizialmente dell'arco orientale della Tanzania, foreste molto antiche con un'incredibile diversità biologica. E da queste esplorazioni, che appunto continuano fino a oggi, perché il Mozambico ne è l'ultimo, ne sarà uno dell'esempio più recente, abbiamo poi consolidato un programma che affianca alla ricerca anche il monitoraggio della biodiversità e la conservazione con le comunità locali, e che si concentra soprattutto nei Monti Udzungwa, che è un'area del centro sud della Tanzania. Quindi da ricerca e esplorazione per fare inventari della biodiversità, per esaltare l'importanza e far conoscere l'importanza di queste zone, siamo passati a ricerche più approfondite, anche ecologiche. Io in particolare mi occupo di mammiferi forestali e poi appunto programmi di monitoraggio, programmi di conservazione. Scusi Rovero, cosa significa classificare la biodiversità? Cioè voi andate alla ricerca delle specie che sono presenti in questi habitat? E che non conosciamo. Esatto, siamo dunque interessati in particolare a anfibi, rettili e mammiferi, animali di cui ancora si sa poco per queste aree, anche se la cosa può essere sorprendente. Vuol dire sostanzialmente fare degli inventari, vuol fare delle checklist cosiddette, delle liste di specie, che è il primo passo per far conoscere l'importanza di queste foreste. Capita che ci siano delle specie fuori da queste checklist, cioè che siano specie endemiche o sconosciute? Assolutamente, fare la checklist vuol dire anche in alcuni casi, soprattutto quello che ha fatto Michele in questi anni, trovare molte specie nuove. Noi abbiamo descritto 27 nuove specie negli ultimi 10-15 anni. Vedi che numeri. 26 sono anfibi e rettili, uno è un mammifero che è il toporagno elefante gigante, di cui credo abbiamo parlato anche con voi. Sì, abbiamo parlato del toporagno gigante. Senta, Rovero, adesso noi passiamo a Menegon, che ci racconta un po' del Mozambico, e tanto credo che la cosa più interessante che sia da raccontare è come voi avete deciso, come avete scelto la zona su cui operare, che è una zona, intanto ci dica questo, dove non è mai arrivato nessuno. Foreste vergini. Soprattutto nel nord del Mozambico ci sono una serie di montagne, in alcune delle quali nessun biologo è mai andato a vedere che cosa c'è. Mm-hmm. Sono montagne coperte di foresta montana, almeno in buona parte. In alcune di queste invece, in anni molto recenti, ci sono state le prime visite da parte di biologi, per cui, che tra l'altro hanno in qualche modo sollevato l'interesse, perché queste prime visite in alcune di questi massicci hanno mostrato la presenza di specie molto interessanti che hanno un ruolo particolare nel definire poi il quadro generale delle montagne dell'Africa orientale. Ma come avviene? Dei ricercatori partono, ovviamente non ci sono strutture ricettive perché essendo foreste vergini, quindi partite col macete, non lo so, fate delle grosse passeggiate, delle lunghe passeggiate in cui guardate in alto, in basso. Ma prima voi utilizzate Google. La cosa interessante è che una parte di questa attività avviene un po' così, un po' romanticamente, come accadeva cent'anni fa con i primi esploratori, per cui la si fa a piedi in foresta con portatori, macete e così via, si fanno dei campi di a volte più di qualche settimana. Però una cosa molto interessante è che la parte iniziale la si può fare in realtà dal divano di casa, perché una volta stabilito che il nord del Mozambico è una zona interessante per molti motivi, ovviamente c'è tutto un lavoro di acquisizione di informazioni a monte di questo, però una volta detto questo, la scelta puntuale dei luoghi dove andare la si può fare sostanzialmente da Google Earth. Adesso la qualità delle immagini satellitari a disposizione è molto buona e si possono individuare proprio dalle immagini satellitari i luoghi, il tipo di foresta, le valli, i rilievi, il tipo di vegetazione che c'è, per cui è possibile individuare in maniera piuttosto accurata il luogo dove andare, addirittura la zona in cui ha senso mettere un campo. Se non sbaglio, voi riuscite a capire quanto è vecchia quella foresta? C'è modo anche di farsi un'idea sul fatto che la foresta possa essere molto antica o meno. Nel senso che molte di queste foreste esistono da tanto tempo perché sono state influenzate o dall'Oceano Indiano o dai grandi laghi dell'Africa orientale, il Niassa, il Tanganyika. Cioè la crescita di queste foreste. Più che altro sia l'oceano che i grandi laghi influenzano la persistenza delle foreste, cioè attutiscono l'effetto delle oscillazioni climatiche. Per cui se una montagna è più vicina all'oceano che ai grandi laghi e la foresta è rivolta nella direzione giusta, per cui in questo caso sul versante orientale, si presuppone che l'oceano abbia contribuito a mantenerla lì, e se è così si presuppone che possa essere piuttosto antica. Se invece è dalla parte opposta, potrebbe avere a che fare con foreste, diciamo, che si sono insediate su queste montagne in tempi più recenti, e parlo sempre di centinaia di migliaia di anni o anche pochi milioni di anni. Quando dico antica intendo 10, 20, 30 milioni di anni. E questo voi lo vedete dall'immagine? no? Sì, si vede benissimo il dove la foresta montana Aspetta, pluviale. Si vede benissimo in che senso? Nel senso che proprio guardando su Google Earth sì, ampliando molto la risoluzione, che cosa possiamo vedere? Ecco, questo che non riesco cosa, a capire. Qual è la traccia di questa diversa antichità? Innanzitutto, appunto, il versante su cui la foresta sta e il tipo di foresta. E il tipo di foresta lo si capisce dalla struttura delle chiome. Si vedono delle chiome che hanno una struttura particolare, che forma una sorta di... sembrano dei grossi cavolfiori. Ah, un po' tondeggianti. Un po' tondeggianti e che definiscono una sorta di reticolo tra loro. Quello suggerisce la presenza di una foresta pluviale. Se questa foresta pluviale sta sul versante giusto, per cui diciamo se la montagna è vicina all'Oceano Indiano, sul versante che guarda l'oceano, allora diventa una cosa subito molto interessante. E quindi voi vi fiondate? Andate lì perché probabilmente c'è tanta roba che non conosciamo. Certo, c'è tutto l'aspetto dell'esplorazione che manca, l'esplorazione selvaggia, però d'altro canto c'è invece questa tecnica per cui si va precisi sull'obiettivo, tra virgolette, e quindi si risparmia anche molto tempo, molte energie e anche molti soldini. Ecco. Questo dà una... diciamo delle possibilità impensabili fino a qualche anno fa, ecco, si riescono infatti davvero a individuare remotamente fin da prima la partenza i luoghi dove andare con una buona approssimazione anche in termini di risultati potenziali, diciamo. Bene, buon viaggio allora, e se avete bisogno un portaborse? Volentieri, come no. Noi ci siamo. Va bene. Grazie Menegon, grazie Rovero. Grazie a voi. Adesso parliamo un po' di viaggi e lo facciamo con Maria Teresa Trivella. Buonasera Trivella. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, lei fa parte di una cooperativa, la Biosfera, che in collaborazione con il Museo organizza, come dicevamo all'inizio, dei viaggi in queste zone dove loro fanno ricerca. Il Mozambico arriverà, in Tanzania ci sono già, ma sono viaggi che possono interessare anche a chi ci ascolta? Cioè, anche noi? Certo. Sono viaggi aperti a tutti e che praticamente mirano a osservare, ammirare e apprezzare le zone più, diciamo, più particolari dal punto di vista naturalistico del paese, che ricoprono praticamente varie aree del paese prendendo dentro ambienti diversi, quindi ad esempio il caso della Tanzania. Non solo si andrà a visitare la foresta dei Monti Udzungwa, che è una foresta appunto primordiale, vastissima, ma si andrà anche a visitare ad esempio il Parco del Ruaha, che invece presenta un ambiente totalmente diverso, ovvero un ambiente di savana, classico diciamo safari africano, però fuori dalle mete del turismo internazionale, quindi commerciali. Ma è un viaggio che dura quanto? 15 giorni, dai 15 a 17 giorni, quindi... E qual è il costo di un viaggio così un po' possiamo alternativo? Possiamo dare un ordine di grandezza, sì. Tenendo conto appunto che si è accompagnati da guide naturalistiche, si ha la possibilità di dormire appunto nell'ostello del centro di monitoraggio dei Monti Udzungwa e quindi di respirare l'aria dei ricercatori che lavorano praticamente in questo parco e inoltre comunque risponde ai principi del turismo responsabile, quindi si dormirà in strutture locali, in ostelli. Il viaggio ha un costo di circa 2420 euro. Solo il viaggio, non l'aereo compreso ovviamente? No, tutto incluso. Ah, tutto incluso, quindi abbastanza... È un po' faticoso? È un viaggio in cui bisogna essere... Dobbiamo allenarci? Molto allenati. No, allora praticamente il viaggio prevede vari giorni in cui si faranno delle escursioni per tutti, quindi fattibili per tutti. Mm-hmm. E abbiamo messo come facoltativo la possibilità anche di fare un trekking un po' più impegnativo di 3 giorni e 2 notti dormendo in foresta proprio nel parco dei Monti Udzungwa, però questo è a scelta di ognuno. Per avere informazioni cosa si va? Si va sul sito del Muse e si trova? Esatto, sul sito del Muse oppure sul sito della cooperativa Biosfera, che è www.cooperativabiosfera.it, Biosfera scritto in latino. Magari sul nostro sito poi mettiamo tutti i contatti per raggiungervi. Grazie Trivella. Grazie mille, grazie a voi. Arrivederci, buon lavoro. Andiamo a vedere il toporagno gigante? Sì, andiamo in Mozambico, partiamo insieme a loro. Però non possiamo perché tra 7 giorni siamo qui. Siamo ancora qui. Non partiamo. Prima o poi però ci andremo. Buona settimana a tutti e a tutte, ci sentiamo qui fra 7 giorni.